lo sai. Voglio illudermi di riaverti ancora come ero un anno fa. Io stasera insieme un altro e tu sarai forse a ridere di me, della mia gelosia che non passa più. Ormai pazza idea di far l'amore con lui, sognando di stare ancora insieme a te. Le folle idea di averti qui, mentre chiudo gli occhi, sono tua. Pazza qui con lui, ma poi pensare solo a te. Immaginare vorrei te.